Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Ben ritrovati a un'altra puntata con SoInfo, la rubrica che ogni settimana vi dà appuntamento con il tema della salute, affrontandolo con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Oggi e domani, per concludere la tematica che ci ha accompagnato nell'ultimo mese, quella della medicina d'urgenza, desideriamo capire quali siano i più recenti interventi migliorativi legati al pronto soccorso, volti a rendere il servizio semplice e comodo per tutti. La prima innovazione è la app Info Pronto Soccorso, attiva per tutta la rete sanitaria regionale. Per capire cosa sia, come funzioni e quali vantaggi offra questa app, ne parliamo con il direttore generale dell'USL 9, Francesco Benazzi. L'app è una cosa stupenda perché dà la possibilità all'utente sostanzialmente di poter vedere nei vari pronto soccorsi di un'area, quindi l'area provinciale di Padova, l'area provinciale di Treviso, i tempi di attesa per i codici bianchi, i codici verdi, i codici gialli, i codici rossi. In particolare è importante per i codici bianchi e i codici verdi, dove l'utente spesso va in un pronto soccorso senza avere i riferimenti e si trova a dover attendere diverse ore perché magari in quel momento c'è tanta gente che aspetta. La soluzione di questa app dà la possibilità all'utente di scegliersi in base al flusso delle persone in quel momento in pronto soccorso, perché è fatto in modo reale, cioè momentaneo, sapere se effettivamente nel pronto soccorso di Montebelluna rispetto al pronto soccorso di Treviso, per esempio, i tempi di attesa per i codici con meno priorità bianchi e verdi sono inferiori, per cui può decidere di andare nel pronto soccorso dove i tempi sono inferiori. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.